Noi partiamo sempre da Gesù. Ce lo siamo detti all'inizio dell'anno liturgico, ma continuiamo una domenica dopo l'altra a partire e a tornare a Gesù, perché noi siamo di Cristo, siamo cristiani. Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, l'abbiamo incontrato in questi Vangeli di quest'anno. Gesù oggi ci fa conoscere, anche se ce ne ha già parlato qualche volta, ma oggi ci fa conoscere lo Spirito Santo. Abbiamo sentito nella prima lettura, Atti degli Apostoli, capitolo 2, la discesa dello Spirito Santo sotto forme di fuoco. Lo Spirito è invisibile e deve pur assumere qualche manifestazione umana, e allora è come se fosse vento, è come se fosse fuoco, qualche volta è come se fosse una colomba che scende planando. E tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, a seconda che lo Spirito concedeva loro di esprimersi. E qui vediamo il grande compito dello Spirito Santo. È colui che unisce, unifica. C'era tanta gente a quel tempo a Gerusalemme, di varie nazioni, perché l'ebraismo è sempre stato, ieri e oggi, diffuso in tutto il mondo. Erano lì per pregare. Gli apostoli parlano nella loro lingua ebraica e stranamente ciascuno li sente parlare secondo il proprio idioma. È esattamente l'opposto di Babele, dove c'era una sola lingua, ma l'era una Babilonia. Non si capiva niente l'uno con l'altro. Lo Spirito Santo unifica ciò che il peccato aveva diviso. E non è una cosa da poco, questa è la terza persona della Santa Trinità, l'unità tra il Padre e il Figlio. Voi comprendete che solo questo dovrebbe farci pregare lo Spirito Santo per il mondo, che oggi, ancora più di ieri, è una Babele. Oltre a questo, lo Spirito Santo svolge altre azioni. Anzitutto è l'anima della nostra fede. Dice: nessuno può maledire Dio. Dire Gesù è anatema, Gesù è un maledetto, nessuno lo può dire se ha lo Spirito Santo dentro di sé. E così occorre, al contrario, avere lo Spirito Santo nel proprio cuore per fare un atto di fede e dire: Gesù è il vero Signore. Non lo puoi dire, non sei capace, non hai luce, non hai sapienza se non hai lo Spirito Santo dentro di te. E questo ci fa capire che se noi facciamo fatica a pregare, noi dovremmo invocare lo Spirito Santo. Aiutami, Spirito, vieni nell'anima mia a pregare il Signore. Dunque, lo Spirito Santo è colui che unifica, ma senza mortificare le diversità. È l'unità, ma nella diversità. E allora sentiamo dire da Paolo ai Corinzi che lo Spirito Santo dà a ciascuno una manifestazione particolare a servizio della Chiesa. A uno gli dà la capacità di insegnare, di predicare, di fare catechesi, e lo rende capace di farlo. Non è una cosa semplicissima, amici, parlare di Dio. Qualcun altro invece lo specializza, per così dire, nel guidare la comunità, e anche qui non è una cosa facile tenere insieme le varie caratteristiche delle persone. A qualcun altro gli dà la capacità di fare guarigioni. Guardate che non è solo Padre Pio che faceva i miracoli, Quelli sono guarigioni vere. Siccome Gesù ha detto nel Vangelo agli Apostoli: io vado e vi mando, annunciate il Vangelo ad ogni creatura, guarite i malati, scacciate i demoni. E questo avviene, amici. Sapeste quante volte, per mezzo delle benedizioni del sacerdote, avvengono cambiamenti, avvengono piccoli prodigi? Quante volte la benedizione di Dio attraverso il sacerdote, possiamo usare in senso generale questa parola, guarisce. Ma un altro tipo di guarigione che lo Spirito Santo dà, tutto spirituale, è la consolazione. Quante volte i sacerdoti, ma anche voi, siete strumenti di consolazione di fronte alla gente? Quante volte si è strumenti di parlare a vanvera? Quante volte si è strumenti di critica? Ma quante volte anche strumenti di consolazione? Oh cari amici, bisognerebbe conoscere proprio la vita della Chiesa dal di dentro, non tutto si può dire, ma il ministero della consolazione è una vera e propria guarigione. Quante volte lo Spirito Santo concede ai suoi cristiani lo spirito del discernimento, lo spirito del consiglio. Da dove vengono queste capacità? Dal fatto che uno ce le ha dentro innate? Forse un pochino anche sì, ma certamente sono vivificate e potenziate dallo Spirito Santo. E quante persone hanno il dono, il carisma della carità? Ah, io credo che se guardiamo ai grandi personaggi della carità, uno per tutti Madre Teresa, ma guardate che il mondo è pieno, Don Oreste Benzi, il Camilliano qui di Milano, morto adesso non mi ricordo più il nome, l'Abbé Pierre, il mondo è pieno di gente che fa opere straordinarie di carità. E a ben guardare, non è che se io e voi ci mettiamo a fare le stesse cose riusciamo, ma no, ma neanche per sogno. Uno deve essere portato, si dice, e da chi portato? Se non dai talenti ricevuti dallo Spirito Santo. L'azione dello Spirito Santo dunque è quella di unificare, è quella di renderci capaci di pregare, Dio è il Signore, è quella che ci rende capaci di sviluppare i doni che ci sono stati dati. Comprendete quanto dobbiamo pregare lo Spirito Santo e come veramente è colui che continua l'azione di Gesù. Allora noi, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede, non possiamo perdere d'occhio lo Spirito Santo, colui che Gesù ha mandato, che ci riempie di questi doni, e pregarlo. Come? Oh, guardate, se noi dovessimo fare il segno di croce, bene, dire il gloria al Padre, bene, ci accorgeremmo che preghiamo la Trinità intera e tra essi lo Spirito Santo. E poi potremmo andare alla ricerca anche di manuali di preghiera in cui si parla dello Spirito Santo, oppure i canti all'inizio della Messa, abbiamo fatto un canto bellissimo, discendi Santo Spirito, il foglietto potete portarlo a casa perché domani non sarà usato più da nessuno. La pandemia ha anche queste esigenze, ciò che tu tocchi resta tuo. Provate a rileggere. Discendi Santo Spirito, e vi auguro di imparare a pregare non solo Gesù, non solo il Padre, ma anche lo Spirito Santo.